scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Tornano gli appuntamenti con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un cantautore che dalla musica d'autore è arrivato al grande pubblico. Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti. Il suo vero nome è Sergio Vallarino, cantautore, si esibisce sempre e si identifica con il suo gruppo, gli Alma Libre. L'album di esordio è L'ultimo giorno nel 2002. La band suona nel concerto del 1° maggio del 2003 e comincia ad aprire i concerti di Goran Bregovic, Banda Bardò, Africa Unite, Vinicio Capossela, Gino Paoli e Tonino Carotone. Proprio un duetto con Tonino Carotone, Margherita, fa conoscere il gruppo al pubblico. Intanto arrivano altri album, Senza smettere di far rumore, Una cura per il freddo e soprattutto Come il suono dei passi sulla neve, che vince ex aequo con Padania degli After Hours la Targa Tenco 2012 nella categoria Album dell'anno. Con E sottolineo se, omaggia il paroliere genovese Giorgio Calabrese e i suoi grandi classici. Con Senza pensare all'estate arriva al Festival di Sanremo. Il brano è Senza di te, che vince i 2 premi della Stampa. Nel frattempo Sergio scrive con Tiziano Ferro la canzone La vita e la felicità, cantata da Michele Bravi, vincitore della 7ª edizione di X Factor. Nel 2015 gli Alma Libre pubblicano il 7° disco Muoviti svelto. A presentarlo è proprio lui, l'autore e frontman Zibba. Il titolo è, come tante altre cose quando esce un album, è un'opportunità di lanciare un messaggio, di dare un messaggio, un segnale. E una delle cose fondamentali di questo album è proprio questo concetto legato al movimento, legato al tempo e a quanto poco tempo abbiamo per fare le cose, anche se ci sembra tantissimo. L'uomo si è ritagliato un suo spazietto, credendosi però, cioè dimenticandosi che non è immortale, e la vita ti porta poi a capirlo prima o poi che non è esattamente così, che abbiamo una scadenza e che questa scadenza va rispettata come tutte le altre. E quando ti nasce un bimbo, come è successo a me in quest'anno, cominci a capire che il tempo ha veramente tanto valore e quindi che non puoi buttare via neanche, se possibile, neanche un momento della tua vita. Per cui è un'esortazione sia soprattutto verso me stesso, cioè che è un promemoria, però indirettamente anche un messaggio verso gli altri. Insomma, facciamo delle cose, perché è meglio muoversi, perché siamo, se no arriviamo tardi. Insomma, è un disco pieno di riflessioni sull'uomo, sul tempo appunto, ma anche un disco pieno di amicizia, non solo per le collaborazioni ma anche proprio nei testi delle canzoni. Hai parlato tanto del tuo rapporto con gli altri. Sì, beh, sai, una canzone per l'altra ha in sé un pochino di tutti questi elementi. Difficilmente, quando scrivo per me stesso, scrivo una canzone monotematica. Mi piace sempre che all'interno della stessa canzone ci siano più immagini. L'immagino più come se fosse un film che non come se fosse una canzone. Quindi cerco di andare a riprendere diverse cose che mi sono rimaste incollate alla mente e di metterle poi insieme. Sicuramente un album, sì, che parla tanto anche di amicizia in entrambi i versi, cioè sia l'amicizia quella vera che l'amicizia quella che sembrava così e poi magari non è, sia l'amicizia quella che serve a qualcosa, l'amicizia quella che non serve a niente. Sono tanti modi di essere amico. È che sicuramente vale sempre la pena di parlarne delle cose, no? Perché visto che ci differenziamo da altre specie animali, perché questa cosa la sappiamo più o meno fare, parliamone delle cose belle che abbiamo e delle persone belle che incontriamo nella vita. Lui non aveva capito niente delle sue paure, le ginocchia piene di sangue faceva male, le ingiustizie avevano il gusto del sapone, e poi verso il mare per riposare pure dall'arte. Le mogli inchiodano i musicisti lasciati al sole, perle di fiume raccolte solo per far collane, strumenti chiusi dimenticati nelle cantine, e nonostante tutto la musica sa dove andare. E muoviti svelto che passerà un treno senza fermare, scrivi sempre per dire che sei arrivato e ricordati dove volevi andare. Grazie alle donne, a quelli che ascoltano e alle pellicole da mattatoio, alle sere d'inverno, alle case di cure, alle fredde tramontane.

riflesso nel finestrino, quanto lunga la speranza che arriva fino alla tua porta. Ti lascio un bacio sulla guancia, fino alla prossima volta. Prendo in mano tutto quanto e parto. Vengo da te, vengo da te. Rimando solo un giorno, ma magari se guardi i dischi dei tuoi colleghi, secondo me inevitabilmente quest'anno si dovrà dire che è stato l'anno del disco di Jovanotti. E ci sei pure lì. No, ma guarda, Jovanotti è di sicuro l'artista che mi ha più influenzato nella vita. Quando avevo 11 anni, sul muro di casa mia c'era scritto "È qui la festa", gigantesco. L'avevo scritto io con la bomboletta spray bianca. Mia mamma ha cristonato per questa cosa lungamente. Io portavo il cappellino, avevo scritto io sulla fronte. Avevo 11 anni, andavo in skateboard e sognavo di incontrare Jovanotti nella mia vita. E lui era appena tornato da militare. E ci ricordiamo bene tutti quel periodo, e aver fatto questa piccola collaborazione con lui per me è gigantesca, anche perché la promessa è di continuare a fare cose insieme. Mi piacerebbe che succedesse presto, e quello che è successo è già un piccolo miracolo. Anzi, lo devo ringraziare perché mi ha dato un'esposizione pazzesca a me nelle sue interviste. Non so neanche se la merito, grazie davvero. Tornando ai testi di Muoviti Svelto, torna il male, il dolore, c'è anche, dicevamo, sincerità, molta sincerità nel parlare di questi aspetti. Beh, uno dei concetti più importanti di questo disco credo che sia questo confronto continuo che ci capita tutti i giorni nel nostro quotidiano, per il quale una cosa che è che ha un risvolto super positivo nella nostra vita può diventare un problema, e viceversa un nostro problema può diventare la soluzione ad altri problemi. Quindi a quanto il dolore e la medicina a questo dolore siano poi in realtà la stessa cosa, molto spesso. A volte ci incastriamo con delle cose che ci capitano, no? Troviamo un lavoro bellissimo, ma poi in realtà quando siamo lì dentro, nonostante guadagniamo bene, non è esattamente il lavoro, non è esattamente la vita che volevamo fare. Quindi è la nostra medicina e il nostro dolore in entrambe le cose. Ed è, credo, l'ago sul quale si muove tutto quanto, cioè il rapporto che abbiamo con il lato A e il lato B delle cose, il lato oscuro e il lato positivo, che poi insomma sono piccole perle di filosofia che tutti hanno sempre detto, cioè qualunque libro di religione o filosofia racconta di questo malessere continuo, perché l'uomo non si può sentire adeguato se non si conosce così profondamente, se non si accetta la nostra natura, della quale fa parte purtroppo più la morte che la vita stessa. È difficile stare in pace con se stessi, quindi questo disco racconta tanto di queste cose, lo dice attraverso le parole di, non so, farsi male, che dice farsi male non è mai una soluzione. E quanto invece a volte farsi male lo può essere per le persone. E mi andava di dire questa cosa perché la sento in questo momento molto importante, molto fondamentale per la mia vita, anche perché quando ti nasce un figlio ti rendi conto che tu non servi più a niente. Non è bellissimo dire questa cosa, mi rendo conto, ma è così, cioè la natura vuole quello, vuole che tu hai fatto un figlio apposta, perché tu poi ti puoi levare dalle palle e lasciare posto a lui e a tutto quello che ne verrà dopo. E questa sensazione di non servire più, ma di avere ancora tanto, così tanto tempo per fare cose, ti mette non un'ansia, ma una voglia, un piacere enorme di ok, mi restano ancora un tot di anni da passare qua sopra e faccio tutto il possibile per renderli belli per me e per le persone che mi stanno attorno. E quindi bisogna fare molto i conti con la realtà delle cose. Ed è tutto per questo appuntamento di oggi con Voci in Scena. C'era con noi Zibba. Ancora un saluto da Marta Cagnola.